Quando apri i tuoi occhi alle menzogne e agli inganni, chi chiamerai? Quando vedi che è piatta e non puoi tornare indietro, chi chiamerai? Per voi, da un luogo non ben noto e con le più avanzate tecniche conosciute dall'uomo, come microfono e computer, arriva lo show che pone domande cui il mondo crede di aver già corrisposto. È l'Arcadia. Quando credi di conoscere quello che credi di sapere, ma non sai a cosa credere su quello che sai, quando è il momento di sapere quello che non sapete e finalmente realizzate che non sapete quello che dovreste sapere, ma sapete che non sapete, arriva l'Arcadia. E adesso per voi, da un altro piano esistenziale, il vostro speaker non preferito, Gabriele. Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata dell'Arcadia, grazie a Radio Big World. Io sono Gabriele e oggi la volevo prendere, dato che c'è stata un po' di puntate abbastanza pesanti, volevo andare più sui leggero per qualche puntata, parlare un po' di musica, di quello che ci potrebbero dire alcune canzoni. Quindi partiamo subito con un assaggio. Get together right now, gonna get together somehow, gonna get together and fly. E questi erano i Coldplay con Up Up, che ci dicono che bisogna prenderlo in qualche modo, bisogna arrivarci finché va, finché c'è questo fluire, c'è questa corrente. Va seguita questa corrente. Il video è interessante, ovviamente vi consiglio di guardare tutti i video delle canzoni che vi propongo, perché vi fanno venire delle domande o comunque dicono: oh, lo sai che c'ha ragione. Sentiamo cos'altro ci dicono in Up and Up i Coldplay. Chiudi la mente o corri il rischio, o prendi il rischio, perché? E nel video, per chi non l'ha visto, nel video si vede che lui è disteso su una pianura o tipo sulla terra, e si vede una donna che si tuffa sulla terra, si vede un castello di carte, la gente che si ribella, dietro c'è un castello di carte. Perché? Perché il globo, o tutte le menzogne che ci hanno detto, è come un castello di carte, che basta una trovare una falla che casca tutto, come il globo. C'è chi si è reso conto che non è, tante cose non tornano, e questo castello di carte sta cascando. Si vede una bambina che è a giocare su questo piano, e sopra si vede che passa un aereo che gli fa cascare i pianeti, compreso la Terra, Saturno, Venere, Marte, e glieli fa cascare dall'aeroplano con un paracadute. La serie che ce lo mettano in testa. Però continuiamo. Una canzone che mi fa fare delle domande è una canzone di, ora cambiamo un po' argomento, è una canzone di Caparezza. Cosa dice di strano? Beh, da una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo, mica Van Gogh. Qui ovviamente quasi tutte le canzoni che posso sentire sono una critica alla società come oggi, o agli insegnamenti che ci vengono dati, o a quello che ci viene fatto vedere che non è vero, o comunque che ci fanno diventare sempre più stupidi. E qui Caparezza ci dice che siamo noi pazzi, non Van Gogh. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Perché anche questa non è una verità che ci dice Caparezza, non è una critica a come è diventato oggi il mondo del lavoro, e siamo sfruttati, che non veniamo pagati praticamente niente, nessuno fa niente, tutti se ne approfittano. Dice: ma io sono un eroe perché combatto. È una canzone, anche se sembra che faccia canzoni stupide Caparezza per alcuni, o che non abbiano un significato, andando a vedere davvero cosa vuole dire, secondo me dice delle grandi verità attuali, le ha dette e le dice tuttora, secondo me. Poi sempre, questi sono sempre pareri miei personali. Comunque continuiamo. Vi volevo far sentire i Rage Against the Machine, per l'appunto, no, la rabbia contro le macchine. Ma le macchine è la macchina della società, la macchina che ci tiene sotto controllo, la macchina che ci mente, come abbiamo già detto in diverse puntate. Ma quello che dicono in alcune canzoni è forte, secondo me, quindi vi propongo, poi vi dico il titolo della canzone. E qui ci dicono che adesso facciamo quello che ci dicono e che siamo sotto controllo, lo ripete, e la canzone è tratta tutta su questo piano, che ci mentono, che non reagiamo in nessun modo, no? E qui la rabbia, perché non c'è una reazione, perché ci fanno tutto quello che vogliono e non reagiamo, solo alcuni reagiscono, solo alcuni tentano di vedere le cose. Comunque la canzone dei Rage Against the Machine era Killing in the Name of, ma sempre i Rage in Mic Check dicono delle cose veramente spettacolari, e sentite cosa dice. Che dice: con questo microfono sputo saggezza, sputo notifiche. Chi ha il potere? Questa è la mia domanda. Le masse o i pochi in questa nazione lacerata? Il libro, il sacerdote o la congregazione? Questi poliziotti che rubano e tengono giù e buttano giù la tua zona, o quelli che danno ai ladri la chiave per la tua casa? Il maiale che è libero di uccidere con un colpo e via? Da pensare a cosa si riferiranno, secondo voi? Secondo me si riferiscono alla politica, al fatto che sono i primi a rubarti, no? Chi ha il potere? Le persone o i pochi che hanno distrutto il paese, o comunque stanno distruggendo il mondo? È questo almeno il mio punto di vista su questa canzone, sulla maggior parte. Poi ricordiamo di Gabbani, che dice che il mondo, che la terra è piatta e che è controllato. Ma comunque continuiamo con i REM. Voi ci credete? Io no, non ci credo per niente. Anche il video dei REM, Man on the Moon, ha delle immagini che si possono collegare sempre sulla sul pensiero della menzogna, dello spazio, dei pianeti e di tutto il resto, perché come dice nei app, in cui dice o chiudiamo la mente o corriamo il rischio, anche in Man on the Moon dice let's play twist, let's play risk. Twist sappiamo è quel gioco sul foglio con tutti i tondi colorati, no? E corriamo il rischio, andiamo, esploriamo, usciamo da dove siamo legati, almeno io la intendo così. Poi e nel video si vede, mi sembra c'è il modello del sistema solare, il modellino del sistema solare che gira. Poi ci sono giochi di prospettiva, ovviamente giochi di luce che hanno a che fare con le ombre, con il sole, sul fatto che ci gira intorno. E invece sono sempre, si torna lì, è sempre un mio punto di vista. Come dice nella canzone, ci credete, siamo stati sulla luna? Io no. Gabbani dice che non ci siamo stati, non ci sono prove, anche lui dice di no. La maggior parte dei cantanti ci dice che non siamo stati sulla luna o che siamo dei morti viventi che vagano in giro e che non pensiamo. Però c'è un gruppo che ascolto da quando ero ragazzo, i Faith No More, con una canzone che si chiama Epic, che dice queste parole che mi hanno sempre rimbombato nella testa, ma le ho capite solo da quando ho iniziato a vedere le cose da un'altra prospettiva. Sentite cosa dice. Lo potete sentire, lo potete vedere, se non ci riuscite non ha importanza, ma non è tanto il testo, ma è tanto il video, perché nel video si torna lì, è una canzone vecchiotta, ovviamente c'è l'occhio, c'è i triangoli, c'è il rosso, giochi di prospettiva anche lì. È interessante, vi consiglio di andare a vedere il video dei Faith No More, Epic. Però poi dicono anche questa cosa qui che ci tenevo a farvi sentire. Qui ci prende un po' in giro e dice ce l'avete in faccia ma non riuscite a prenderlo. Dice che cos'è? E come torno, collego, e qui ritorno ai Coldplay che ci dicono che lo dobbiamo prendere in qualche modo, dobbiamo arrivarci, dobbiamo prendere questa cosa finché va. E io penso che sia più, si riferisca più a, almeno riguardo ai Coldplay, si riferisce più alle vibrazioni, a questo, diciamo, sentimento che sta fluendo piano piano, questa unione che unisce le persone. And the people bowed and prayed to the neon god they made. Questa era Sound of Silence e dice le persone si piegano e pregano il dio neon che loro hanno creato. Il dio neon, almeno io la intendo, può essere interpretata in diversi modi, secondo me. O è riferito alla televisione, dio neon può essere riferito alla televisione, ma può essere anche riferito al fatto che ci fanno pregare il sole, il dio sole, perché hanno messo il sole al centro dell'universo, del nostro universo, mentre prima era la Terra al centro dell'universo e tutto era, cioè eravamo noi al centro dell'universo e tutto ci girava intorno. Quindi non lo so, è una mia interpretazione. Poi molto probabilmente si riferiscono alla televisione, ma alla scatola magica che ci dà le notizie, ci dice quello in cui dobbiamo credere e quello che succede, però non lo so, se torna lì mi sembra un po' tutto collegato e che ci sia alcuni fili, forse a volte io li forzo un pochino questi collegamenti, ma alla fine c'è in una canzone, dice, questa è solo una canzone come tante, ma come tutte le altre canzoni ha una sua verità. Credo che ogni canzone abbia da dire la sua, perché alcune canzoni sono canzoni così per esprimere un sentimento e altre canzoni secondo me sono più come una poesia, un messaggio, comunque c'è qualcosa dietro che vuole essere messo lì davanti ai nostri occhi o per distrarci o per cercare di dirci davvero qualcosa. Come i Guano Apes, in questo caso questi erano i Guano Apes con Open Your Eyes, che ci dicono che è tempo di affrontare le bugie, aprire gli occhi e aprire la mente. Come in questo caso anche gli Avatar, questi erano gli Avatar con Toothpick and Claw, che ci dicono che bisogna, occhi ben aperti, aprire gli occhi e prenderlo. Ma prendere cosa? Cos'è che bisogna arrivare a prendere? Che ci ripetono in tutte le canzoni? È questo che mi stuzzica il cervello tutte le volte che ascolto una canzone. C'è un messaggio di genere, che abbia a che fare con la terra piatta o no, come nel caso di Rage Against the Machine o di tanti altri gruppi che sono contro il sistema come è oggi, che vanno contro, ti dicono che ti stanno sfruttando e devi aprire gli occhi. Quindi cerchiamo di aprire gli occhi. Dall'Arcadia è tutto, io sono Gabriele, grazie a Radio Big World e alla prossima, ciao.